ben ritrovati nell'appuntamento del venerdì, l'ultimo della settimana, per lo spazio di Hard & Heavy offerto giornalmente dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì appunto, da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Sito internet www.mariposadischi.it. Il benvenuto su Rock FM dalla voce di Marco Gravelli, il nostro spazio del venerdì di Hard & Heavy Live, caratterizzato dalla presentazione in parte, visto che il tempo è soltanto un'ora, di nella prima mezz'ora un importante, decisamente valido album live per una band hard rock, e nella seconda mezz'ora lo stesso vale per una band di heavy metal. Oggi abbiamo scelto Blue Oyster Cult per la prima parte e i Gravedigger per la parte metal. Blue Oyster Cult, che sono una grande hard rock band americana, nati intorno al 1967, quindi si parla veramente di tanto tempo fa. Hanno pubblicato diversi album live, quello che vi presento questa sera è il doppio Extraterrestrial Live, uscito nel 1982, arrivò al numero 29 in America e 39 in Inghilterra, un doppio vinile. 13 tracce registrate durante il Black and Blue Tour, che la band tenne come co-headliner insieme ai Black Sabbath, come di supporto c'erano i Riot. Presente, da segnalare, anche se non lo ascolteremo, una cover dei Doors, Roadhouse Blues, dove come special guest è presente proprio il chitarrista dei Doors, Robbie Krieger. Peccato solo per l'assenza di uno dei loro classici astronomi, ma ripeto, questo è anche il terzo album live della formazione. Formazione composta da Eric Bloom, voce chitarra, Buck Dharma, altra chitarra, Joe Bouchard al basso, Alan Lehner, tastiere, Albert Bouchard alla batteria, Rick Downey alla batteria, che si sono alternati. Uno, Albert Bouchard, fu licenziato durante il tour e Rick Downey prese il posto di Albert durante il tour, quindi alcune canzoni vedono presente Albert, altre canzoni vedono presente Rick. Noi partiamo con il primo brano che andiamo a proporvi, si intitola The Red and the Black, la cui versione in studio si trova nel secondo album Tyranny and Mutation. La formazione è quella dei Blue Oyster Cult. We'll be right back. primo pezzo che vi ho proposto, ricordo che stiamo proponendo e presentando Extraterrestrial Live, uno dei tanti album live dei Blue Oyster Cult. Comunque vi consiglio il primo, On Your Feet or On Your Knees, e quest'altro, Extraterrestrial Live. Sono decisamente i due migliori e raccolgono il meglio della loro produzione. Questo doppio vinile, abbiamo iniziato a proporre il pezzo The Red and the Black. Iniziamo anche a parlare della storia della band, biografia come sempre preparata dal nostro autore Simone. L'abbiamo detto che il gruppo arriva dall'America, nati nel 67, dopo diversi cambi di nome arrivano al definitivo Blue Oyster Cult come scelta. Fondatori del gruppo sono il tastierista Alan Lehner, il chitarrista Buck Dharma e il batterista Albert Bouchard. La lineup fu definitiva nel 1969 con l'ingresso del cantante e chitarrista Eric Bloom a sostituire il precedente vocalist. Importante per la band è stato anche il loro manager Sandy Pearman, che era anche poeta e giornalista e che contribuirà inoltre a scrivere i testi delle loro canzoni. In tema di collaborazioni anche il celebre Michael Moorcock parteciperà alla scrittura dei testi. È sempre grazie a Pearman che ottengono un contratto discografico tramite il quale arrivano all'esordio nel 1972 con l'omonimo album Blue Oyster Cult, che gli diede la prima notorietà, oltre a valergli un tour di spalla ad Alice Cooper. Altro brano che andiamo a proporre, vi ho citato la collaborazione con lo scrittore Moorcock, ebbene questo brano viene proprio scritto in collaborazione con lui, si trova nell'album in studio Cultusaurus Erectus, noi naturalmente lo proponiamo in questa versione live, si intitola Black Blade, la formazione è quella dei Blue Oyster Cult. Yeah. from the beginning to the end of time, and I'm the cosmic champion, and I hold a mystic sign, and the whole world's dying, and the girl's mine, and the black soul keeps on killing to the end of time. Black Blade, con la collaborazione dello scrittore Moorcock, dal doppio Extra Terrestrial Live che vi stiamo proponendo questa sera per la formazione dei Blue Oyster Cult. Abbiamo detto che nel 1972 esce il loro primo album, un anno dopo esce il secondo, Tyranny and Mutation, in linea con l'esordio, mentre il primo successo arriva con il terzo album nel 74, si intitola Secret Treaties, che arriva al numero 53 in America. L'album fu certificato disco d'oro, quindi 500.000 copie vendute, grazie anche al singolo dal titolo Astronomy. Visto il buon momento e la continua ascesa, pubblicano il loro primo album dal vivo, che vi consiglio. Ripeto, è il primo che comprende praticamente le canzoni dei primi tre album. Si intitola On Your Feet or On Your Knees, che ottiene un ottimo riscontro negli States, tanto da raggiungere la 22esima posizione. Per un doppio live non è male. Arriviamo al 1976, quando viene pubblicato il loro capolavoro Agents of Fortune, anch'esso disco d'oro, e due anni dopo anche disco di platino. Ricordo, il disco d'oro arriva ad essere certificato alla vendita di 500.000 copie, disco di platino 1 milione di copie. In quell'album vi era anche il famoso singolo Don't Fear the Reaper, che ascolteremo in chiusura. Grazie a quest'album la loro notorietà arriva anche in Europa. Entrano in classifica in Inghilterra numero 26 e addirittura sino al decimo posto in Svezia. Altro motivo famoso, altro singolo di successo che si trova nell'album Fire of a No Origin è il motivo che andiamo a proporvi, cioè Burning for You. I'm Burning For You, grande successo come singolo qua nella veste live da Extraterrestrial Live, Blue Oyster Cult. Continuiamo con la storia della band, arriviamo alla pubblicazione del lavoro Spectres e dopo quell'album in studio pubblicano il secondo live, questa volta singolo e non doppio, anche lui supera il milione di copie vendute. Nonostante il successo, finisce però la collaborazione con lo storico manager Perman, che diventerà poi il manager dei Black Sabbath. Con un nuovo produttore pubblicano nel 79 il sesto album Mirrors, che si rivelò però un passo falso. Pertanto decidono di affidarsi ad un nuovo produttore. Spunta il nome di Martin Birch, che dopo pochi anni sarebbe diventato famoso per lavorare con gli Iron Maiden. Esce così nel 1980 Cultus Aurus Erectus, che li fece tornare al successo come il successivo Fire of Unknown Origin. Visto il ritrovato successo, pubblicano il loro terzo album dal vivo, quello che vi stiamo proponendo, cioè Extraterrestrial Live. Da quest'album in poi la band comincerà ad avere però problemi di line-up e, complice il calo qualitativo degli album, la notorietà diminuirà sempre di più. Infatti da prima se ne andrà il batterista, in seguito anche il tastierista e il bassista. Dopo la pubblicazione dell'album Club Ninja del 1986, il gruppo si scioglie per un paio di anni. Si riunisce nel 1988 in occasione di un concerto, al quale seguì la pubblicazione dell'album Imaginus. La band continuerà ad esistere, ma per pubblicare un nuovo album in studio passeranno 10 anni. L'ultimo è del 2001, si intitola Curse of the Hidden Mirror. Poi è seguito qualche anno fa la pubblicazione di un altro CD dal vivo. Siamo in dirittura d'arrivo per l'ascolto di un altro classico della formazione. Il brano ve l'avevo annunciato, si intitola Don't Fear the Reaper, la cui versione in studio si trova nel quarto famosissimo album Agents of Fortune. Ricordo che in questa prima parte stiamo proponendo canzoni dal doppio Extraterrestrial Live, il terzo album ufficiale dei Blue Oyster Cult, e dopo l'ascolto di Don't Fear the Reaper entreremo nella seconda parte del nostro spazio di Hard and Heavy Live del venerdì, dove andremo a proporre, come annunciato, la formazione dei Grave Digger. Prende via la seconda parte di Arden Devi per questa sera. Dopo Blue Oyster Cult andiamo sul palco live di San Paolo in Brasile per ascoltare alcune tracce da questo doppio CD. Qui siamo più vicini ai nostri anni rispetto alla produzione precedente di Blue Oyster Cult. Loro sono i Gravedigger e il loro secondo album dal vivo si intitola 25-2 Live, uscito in effetti nell'ottobre del 2005, in occasione, lo dice il titolo, dei loro 25 anni di attività. Concerto tenutosi il 7 maggio del 2005 a San Paolo, come vi dicevo, in Brasile. Le tracce del live sono ben 27, delle quali una è un intro che ripercorrono tutta la loro carriera, dall'esordio sino al penultimo album, The Last Supper. L'album è un doppio CD per un totale di 2 ore e mezza di musica, inoltre è anche disponibile con le immagini in DVD. La formazione è composta da Chris Bolton alla voce, Manny Schmidt alla chitarra, ex Rage, H.P. Katzenburg alle tastiere, James Baker al basso, ex Running Wild, e Stephen Arnold alla batteria, ex Capricorn. Il primo brano che andiamo a proporre per la band tedesca si intitola Valhalla, la cui versione in studio è presente sull'album dal titolo Rain Gold, Gravedigger. Yeah. applausi per il primo motivo che abbiamo proposto e presentato da questo 25 to Live registrato dal vivo. Questa volta, come vi segnalavo, è un concerto intero, quindi non è un ripescaggio, un assemblamento di varie date live, ma una sola dove hanno posizionato il tutto. Studio mobile di registrazione, studio mobile per le riprese, dato che è uscito anche il DVD di questo concerto. E allora iniziamo a parlare della storia di questa band tedesca che è emersa nella seconda metà degli anni 90 con ottimi album che li hanno imposti all'attenzione del pubblico. Anche se il gruppo nasce nel 1980, il leader del gruppo è il cantante Chris Boltendahl, che però nella prima parte della storia della band erano solo un trio e lui suonava il basso. Dopo essersene andato per un breve periodo, rientra in formazione due anni dopo, nel 1980, questa volta nel ruolo di cantante, e si occuperà per l'intera discografia della band proprio come vocalist, tanto che è da considerare l'unico membro storico del gruppo. Al lineup assestata a 4 elementi partecipano ad una compilation che gli permette di ottenere un contratto con la Noise Records, che pubblicherà i primi 3 album della band. Arrivano così all'esordio nel 1984 con l'album che è diventato un classico, Heavy Metal Breakdown, che all'epoca riuscì a vendere 40.000 copie. Andiamo a proporre la seconda canzone, si intitola Knights of the Cross, dal vivo in Arden Davy, Grave Digger. European countries, so far. notte di Knights of the Cross per la formazione dei Gravedigger, secondo brano appunto estratto dal loro doppio CD dal vivo. Continuiamo nell'esposizione della loro storia, come sempre preparata dal nostro autore Simone. Siamo nel 1985 quando esce il secondo album dal titolo Witch Hunter, che gli valse un tour insieme agli allora emergenti Halloween e soprattutto insieme ai Celtic Frost. In occasione del terzo album War Games nel 1986 arriva il primo cambio di lineup con la sostituzione del bassista. Il quarto album, Stronger Than Ever, è negativamente importante per la band. Innanzitutto uscì sotto il nome di Digger e non Grave Digger, e musicalmente era molto più commerciale, orientato verso un hard rock. L'album si rivelò in effetti un flop di vendite, ma anche di critica, e ciò portò alla perdita di credibilità del gruppo e allo scioglimento della band nel 1987, gruppo che poi si riforma, come sentiremo. Andiamo a proporre un altro loro classico, si intitola Excalibur. Oh! Excalibur, Great Digger, dal vivo a San Paolo del Brasile, era il 7 maggio del 2005, questo è il 25 to Live, il loro doppio CD dal vivo che vi stiamo presentando. Vi ho segnalato allora che la band si scioglie nell'87, 4 anni dopo, Chris però la riforma insieme al chitarrista Uwe Lulis, e i nuovi entrati sono Tommy Gottlieb e soprattutto il bravo batterista York Michael. Con questa formazione pubblicano nel 93 il buon The Reaper e anche l'EP seguente The Symphony of Death. Da questo EP i Grave Digger cominciano ad utilizzare la propria mascotte, un po' come Eddie per gli Iron Maiden, ed è uno scheletro che si chiama appunto The Reaper, che sarà presente sulle loro copertine. La notorietà torna con l'ottimo Heart of Darkness, che raggiunse la 73esima posizione nelle classifiche tedesche. Nel 96 entra in line-up un nuovo batterista, cioè Stefan Arnold, che ancora oggi è in formazione. Il risultato di ciò è il bellissimo Tunes of War, che musicalmente presentava un uso massiccio di cori, una maggiore epicità, e fu il primo concept album della trilogia dedicata alla Middle Age. L'album ebbe un ottimo riscontro e gli valse la partecipazione alla prima edizione del Gods of Metal qui in Italia. Il successo di questo lavoro fu da traino per il successivo concept Knights of the Cross, che arrivò al numero 38 in Germania, seguito da Excalibur nel 1999, che andò ancora meglio, arrivando al numero 21. Dopo questa trilogia di successo arriva un nuovo cambio di line-up, con l'ingresso di Manny Schmidt alla chitarra, che è anche l'attuale chitarrista con cui registrano l'omonimo album del 2001, dal sound piuttosto cupo, oscuro. L'album gli valse la partecipazione al Wacken Open Air Festival e in questa occasione registrarono il loro primo live album. Altro brano che andiamo a proporre si intitola Rebellion, la cui versione in studio è nell'album Tunes of War, cantata, canzone che è anche uno dei loro cavalli di battaglia, Grave Digger. Yeah. Rebellion per la formazione dei Gravedigger. Siamo quasi al termine della loro storia. Arriva dopo la pubblicazione del primo live album il contratto con la loro etichetta, la Nuclear Blast, che ne pubblicherà i due album successivi e anche questo live 25 to Live. L'ultimo album in studio è stato Liberty or Death, uscito all'inizio di quest'anno, che ha raggiunto la posizione numero 30 in Germania e li ha portati dal vivo anche qua a Milano insieme ai Therion. Per quanto riguarda la lineup, c'è da segnalare da qualche mese l'ingresso di un secondo chitarrista, cioè Tilo Herrmann, che ha già militato nei Running Wild e negli Holy Moses. Siamo addirittura d'arrivo, quindi saluti da parte di Marco Gravelli a tutti voi, buon weekend, un grazie al nostro autore Simone, allo sponsor Mariposa Dischi, e andiamo a proporre quello che è anche il brano intitolato Heavy Metal Breakdown. Grazie a voi, alla prossima lunedì, ciao ciao!